suicida, quella lacrima che scivola me putrida. La coscienza è putrida, preda imprestito presto, prima che sia l'ultima. Chi controlla il presente e chi il passato, chi c'è riuscito e chi c'è rinunciato. Spreco l'ultimo fiato, la libertà, ignoranza, la mediocrità e salvezza, chi ci svezza. Natura è plastica, una realtà agnostica. Leggiti le leggi, riproponimi una chance, ma la tua puzza non fa audience, anzi abbuffi dai miei avanzi. E l'odio per il proprio è troppo, il dado resta tratto, ma purtroppo a tratti il ricordo di me è una tragedia, un'amarezza in bocca, il nulla che rimedia, a distanza ci allontanano, spingimi più in là, più oltre, o ci perdiamo un po', ma solo un altro po', è putrido, la coscienza scivola, ciò di cui ho bisogno, e ciò che rinnega che non voglio, scivola, coscienza in tetra, fac tetro, zoom sul collo, respira, mi porti in giro come il vento, una frasca, una sosta, giusto il tempo di capire che cos'è che mi imprasta, una merda dal silenzio religioso, sento un urlo, un respiro corto, spasmo, spasmo, mi rendo conto sono morto, ora lievito tra le lenzuola, e nulla mi consola, e tutto il resto mi perfora, e nulla mi consola, e tutto il resto mi perfora, tutto il resto mi perfora. Nessuno ride dell'udito del zoppo, nessuno ride della vista del cieco, tutti ridono del pazzo, tutti ridono del pazzo. Nessuno ride dell'udito del sordo, nessuno ride della vista del cieco, tutti ridono del pazzo, tutti ridono del pazzo. Puoi correre all'infinito, ma il suo porto sarà sempre dietro, tu hai paura del suo pesante alito, corri i tuoi passi si infossano e più sei stanco, nel labirinto di Robin non vedi la sigla exit, verde su bianco, tagli ciò che sembrava aria, era fettore, soffletto, fletto, abbatte ogni singolo mortale, un piange se senza forza, perdi fede, forma una deficienza che ci assilla, foto di demenza che mi accompagnano giornalmente, difficile se consapevole del nostro essere, ovatta con passione, malessere, mentirsi, convincersi del falso, può essere, io dico mai può essere, al 99,99% d'assenza di impurezze, divieto di trasmissioni, di insicurezze, sequenze sbagliate ma tolto il vizio, io un sodalizio con me stesso, tetro a tal punto che il mio teatro trova sfogo nel tuo culo, è una catena materia grigia in cancrena, torturandomi il pensiero alito teatro, altro che periodo aureo con l'impluvia in gola, caricate pure, altro che periodo aureo con l'impluvia in gola, caricate pure, caricate pure, caricate pure, caricate pure. Nessuno ride dell'udito del zoppo, nessuno ride della vista del cieco, tutti ridono del pazzo, tutti ridono del pazzo. Nessuno ride dell'udito del sordo, nessuno ride della vista del cieco, tutti ridono del pazzo, tutti ridono del pazzo. Non trovo più gli stimoli per prendere la penna in mano e deprimermi, ma qualcosa di più grande mi sfugge il concetto, non lo capisco affatto, né capire quando è che sono me stesso, che cos'è che è me stesso, quando mi accompagno nella solitudine di me stesso. Adesso molto più importante di ciò che si è, di ciò che si può essere, agli occhi altrui, mentre di noi stessi lottano e fiorano lati bui, forse felice sarà colui che ha e rappresenta una maschera di ovatta e plastica, sembra ignobile, l'intelletto resta immobile, relazioni qualitali, formali, concezionali, primitive, morali, insulse e sensuali, moventi della volontà che fa pena e che fa forza, che fatica ad accettare ciò che è, ciò che ha, ciò che rappresenta, ciò che è, ciò che ha, ciò che rappresenta, non trovo più gli stimoli, ciò che è, ciò che ha, ciò che rappresenta. Nessuno ride dell'udito del zoppo, nessuno ride della vista del cieco, tutti ridono del pazzo, tutti ridono del pazzo. Nessuno ride dell'udito del sordo, nessuno ride della vista del cieco.